La zanzara con Alessio Maurizi. 18:32 minuti, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 per intervenire in diretta anche questa sera per dire la vostra in compagnia della Zanzara, serata di Pasquetta. Siamo fortunati perché abbiamo anche la notizia, come sapete naturalmente si è dimesso Renzo Bossi, però non basta perché altri vogliono le dimissioni di Rosi Mauro, di Belsito, e qualcuno parla addirittura di espulsione dalla Lega di Renzo Bossi. Ne parleremo diffusamente più tardi, ripeto 800 24 00 24, potete cominciare a prenotare i vostri interventi. Prima titoli TG2. Ancora tensione nella Lega Nord, sconvolta dalle inchieste. Renzo Bossi lascia il consiglio regionale della Lombardia e Calderoli alza il tiro, si dimetta anche Rosi Mauro. Altre esecuzioni sommarie tra i civili in Siria, decine le vittime, le truppe di Assad sparano sui profughi al confine con la Turchia, sale la tensione con Ankara. Gli avevano concesso i domiciliari costringendolo a vivere con la madre, un uomo di Napoli aveva chiesto invano di tornare in cella e ieri per farsi arrestare ha tirato una molotov contro un commissariato. 8 italiani su 10 hanno trascorso le vacanze di Pasqua in casa, una festa all'insegna del risparmio e del maltempo, con una spesa complessiva di 1 miliardo e 200 milioni, il 7% in meno dello scorso anno. La Zanzara, siamo anche su Facebook, più tardi leggeremo anche alcuni dei vostri commenti, poi 349-238-6666, la Zanzara, @radio24.it, se volete scriverci, SkyTG24. Renzo Bossi si dimette da consigliere regionale, il padre ha fatto bene. È uno tsunami, ammette Calderoli e auspica le dimissioni di Rosi Mauro. Scompare un volto storico della sinistra, è morta la giornalista Miriam Mafai. Misterioso omicidio nel Ferrarese, un 45enne accoltellato a morte in strada. Monti in Egitto, in Israele commozione per la visita allo Yad Vashem. Pasquetta in tempi di crisi, il pranzo in casa con la tradizione e con qualche rinuncia. Serie A si riparte con la Juventus, domani Milan a Verona per il riscatto. Occhio alle onde, rapporto Carelli esamina i danni causati dai cellulari. Mentre gira, gira, gira nel laghetto di montagna senza colpa né magagna. La famiglia delle trote blu sulla vecchia bicicletta va Renzino con Lucietta verso il grande cantamento. In questo momento di difficoltà del mio movimento, senza che nessuno me lo abbia chiesto, do il buon esempio, faccio un passo indietro e mi dimetto da consigliere regionale. Sono fiducioso che la magistratura saprà dare tutte le risposte alle domande che oggi ci si pone. E io non so dove abbiamo trovato questa canzoncina che sembra scritta apposta adesso per l'occasione, Le Trote Blu, la canzone di montagna, quindi si adatta anche alla Lega del Nord e Renzino che va in giro senza magagna. Io penso che sia stata scritta adesso apposta, invece mi dicono no, dalla redazione, che è una canzone del Festival di Sanremo del 1957, dunque abbondante prima delle vicende di Renzo. Ah, insomma, la notizia è questa naturalmente, ma la cosa più strepitosa, poi sentiremo altre dichiarazioni di Renzo Bossi, l'ha detta il papà Umberto, perché ha detto sì, si è dimesso perché insomma era stufo di andare in regione. Ma gliel'ha consigliato lei di dimettersi? Era già almeno 2 o 3 mesi che mi diceva che era stanco di stare in regione. Perché non si trovavo. Vabbè, insomma, anche questa volta Umberto strappa la scena da protagonista al figlio Renzo che si dimette dal consiglio regionale. Insomma, però anche questo è un fatto, perché bisogna dare atto a Renzo di essersi dimesso, altri parlano e lui ha agito sotto la pressione sicuramente degli eventi, però possiamo dire che anche questo è un qualcosa che apre un solco ancora più profondo forse con gli ex alleati del PDL. Ve li immaginate Berlusconi e Cicchitto, tanto per dire il numero uno e il numero due del partito, o Verdini, chi volete, che si dimettono ancora prima di essere indagati sulla base di un sospetto. Non se ne parla nemmeno con le cannonate se ne andrebbero via. Lì si comincerebbe a parlare di complotti della magistratura di sinistra, eccetera, nel PDL, ma anche in altri partiti. Insomma, ci si dimette con meno facilità. E Renzo Bossi si prende questa piccola rivincita e oggi dice: sì, io intanto mi sono dimesso e non sono nemmeno indagati. Altri in consiglio regionale hanno agito diversamente. Io sono assolutamente sereno, so cosa ho fatto e cosa soprattutto non ho fatto, ma soprattutto non sono indagato. Lei è uno dei pochi comunque a non essere indagato in questa vicenda. Sì, ma soprattutto in consiglio regionale direi che negli ultimi mesi ci sono stati diverse vicende giudiziarie che hanno portato a essere indagate più di una persona. Io non lo sono, ma credo sia giusto e opportuno in questo momento per il mio movimento fare un passo indietro. La famiglia delle trote. Già, la famiglia, il peso della famiglia, si è scritto molto in questi giorni sui giornali. Bossi che si è rovinato per dare troppo spazio alla famiglia. Va bene, ma almeno adesso sappiamo che cos'era questo cerchio magico, questo benedetto cerchio magico. Chi c'era nel cerchio magico? C'era sicuramente Bossi, la moglie, i figli, un paio di segretarie consenzienti, Belsito, il tesoriere, Rosi Mauro sicuramente. E sappiamo anche che cos'era la magia che compiva questo cerchio magico. Insomma, facevano sparire i soldi dei rimborsi elettorali, truccavano i conti e i soldi finivano tutti per le spese personali di Renzo. E non solo, insomma, se no sembra che sia l'unico, ma insomma di tutta questa pletora che stava attorno a Re Umberto, ristrutturare il giardino, il terrazzo, la casa, la lavatrice, le spese per il dentista, per il cardiologo, c'era dentro di tutto. Tant'è vero che sempre profetico Bossi, Renzo, diceva qualche tempo fa, quando lo criticavano per il suo ruolo in consiglio regionale: lo stipendio per me è l'ultimo dei problemi. Te credo, con tutti i soldi che prendeva dalla Lega. L'ultimo dei miei problemi e dei miei pensieri è lo stipendio, che proprio non mi interessa. Io credo che la politica si debba fare se si ha la passione, punto. Non è per lo stipendio che si fa politica. Ma operando sta il destino per Lucette e per Renzino. L'anellino di Turchese. Era diventato il mio bancomat, cioè ero diventato il suo bancomat personale, scusate, dice così perché spunta fuori un'altra talpa, si tratta di Alessandro Marmello, che è ex o ancora non so attualmente autista e bodyguard di Renzo Bossi, che al settimanale Oggi ha rilasciato un'intervista, ci sono anche gli audio, lui si è registrato per dare la prova, evidentemente stufo di subire questi che lui considerava naturalmente dei soprusi, cioè lui andava alla sede della Lega con gli scontrini che gli dava Renzo, tornava coi soldi, li dava a Renzo e così funzionava. E infatti si è registrato in una di queste prodezze per dimostrare quello che succedeva. Proviamo a sentire uno di questi passaggi, sentiamo. Ora vi farò vedere come lui adesso prenderà 50 euro da uno scontrino che mi ha dato. Ovviamente non sono le uniche che lui ha preso. Scontrino di benzina della sua macchina, 50 euro. Sono un cretino, mi sono vestito col jeans. Invece sono andato a curare un ospedale. Ascolta, no, ti ho preso scontrini, borsi, so le ultime cose. Ah, perfetto. Te sei a posto. La famiglia. Non lo so quanto ci sia da prenderle sul serio queste registrazioni. Te sei a posto, gli dava i soldi dopo che lui gli aveva dato lo scontrino delle spese. Infatti un'altra talpa che riferisce proprio in questi giorni, e c'era una contabilità parallela, insomma tutte queste spese venivano annotate perché prima o poi qualcuno insomma le avrebbe rigirate contro chi aveva ricevuto tutti questi benefici. Ma la vera fissazione degli esponenti del cerchio magico della Lega era il diploma, e molti di questi soldi sono finiti proprio per acquisire un diploma. Che delusione però, pensandoci bene, perché insomma uno dalla Lega si aspetterebbe magari qualcosa di diverso. Loro che rivendicano l'identità, l'orgoglio di appartenere a un popolo dove conta più la partita IVA della laurea o del diploma, invece no, tutti ci tenevano ad avere questo benedetto pezzetto di carta e quindi facevano spese folli. Renzo e la stessa Rosi Mauro, che avrebbe preso credo una laurea, non so se ho letto bene, in Svizzera. A dire il vero, a Renzo il diploma serviva perché le basi erano debolucce. Ripercorriamo allora alcuni dei momenti delle sue interviste dove cadeva in qualche notevole strafalcione. Cominciamo con il pluralismo. Io stesso uso questi nuovi media, i social network come Facebook e Twitter, quotidianamente, sempre improntandoli a quello che è l'ambito lavorativo. Quindi di fatto sono un fondamentale presidio di un pluralismo. Vabbè, qua fa ridere perché uno si può impappinare sempre e comunque. E invece nel prossimo passaggio era un'intervista da La Bignardi alle invasioni barbariche. Io confesso che non l'avevo visto ed è davvero triste vedere il povero Renzo messo in una circostanza, in una situazione più grande, molto più grande di lui, anche se l'intervista, la domanda non era difficile, sentite. Tre valori in cui credi? Allora, l'onestà sicuramente prima di tutto, poi vediamo. No, perché l'onestà credo sia uno dei valori più importanti. Veloce, altri due. Ma non saprei. Di montagna senza colpa nel magagna. Intanto salutiamo Fabio Rolfi, vice sindaco di Brescia e segretario provinciale della Lega Brescia. Vogliamo che ce le canti un po' questa sera ai nostri microfoni. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, intanto però faccio sentire un altro passaggio. Questa volta è sempre Renzo Bossi, le polemiche attorno al Giro della Padania. Altra cosa insensata e assurda, io credo di poter dire tranquillamente, anche alla presenza di Rolfi, che nella quale la Lega si era imbarcata, mettendoci in mezzo il povero Renzo, che anche qua si impappinava un po'. Siamo qua anche per lavorare, quindi quello che hanno chiesto ieri mi sembra più di un atleta è il rispetto prima di tutto per degli atleti che corrono, fanno il loro lavoro e danno anche molto spettacolo, quindi è giusto che si lasciano proseguire. È giusto che ci lascino proseguire. Questo era uno dei tanti strafalcioni. Devo dire che qualcuno oggi ha scritto: le dimissioni di Bossi manderanno in rovina metà dei blog e insomma di chi fa questo tipo di cronache, perché dava degli spunti notevoli. Rolfi. Ma su questo ultimo aspetto devo dire che Bossi si dimette, ma rimane Di Pietro, che come strafalsoni ne offre l'altra metà i blog di Mezza Italia. Quindi... Vabbè, insomma, salverà lui i blog e la cronaca politica. Senta Rolfi, soddisfatto di queste dimissioni prima di tutto? Ma è un primo passo, non deve pagare tutto unicamente Renzo Bossi, non è l'unico responsabile, un ragazzo di 20 anni fosse buttato troppo presto, con un nome molto pesante, una responsabilità troppo grossa per le sue spalle nell'arena politica, e ci sono altri responsabili, e poi una volta accertate le responsabilità, se confermate non bastano le dimissioni. Ma di chi sono le responsabilità? Perché qua non è chiaro chi diciamo aveva un ruolo operativo e chi era la mente di tutto questo, cioè perché noi abbiamo mandato anche questo passaggio dell'autista di Renzo Bossi, che insomma stufo di fare da bancomat, dice addirittura ha registrato le conversazioni. Cosa vuol dire fare pulizia adesso nella Lega secondo lei? Ma fare pulizia significa innanzitutto porre fine a cerchi magici o tragici che hanno in qualche modo influenzato la gestione del movimento in modo, quanto pare, anche secondo interessi personali. Poi significa, al di là degli eventuali reati che accerterà la magistratura, perché spetta la magistratura a far questo, significa a mio avviso punire i responsabili di condotte morali deprecabili per quanto attiene appunto l'immagine del movimento. I soldi di un partito politico, un movimento politico, vanno usati per fare attività politica, non per esigenze personali. A maggior ragione se questi provengono dal rimborso elettorale, cioè dei contribuenti italiani. Quindi è fondamentale per salvare l'immagine del movimento e nel rispetto dei suoi militanti, che spesso, anzi ogni giorno, ci mettono la faccia finanziando l'attività politica di tasca propria, punire chi è responsabile di questi comportamenti moralmente non accettabili. Ecco Rolfi, adesso resti in linea, facciamo una pausa per il traffico, poi le voglio chiedere, perché lei è tra gli animatori della serata martedì, insomma domani credo, no? Dell'orgoglio leghista, in cui insomma, faremo anche la cronaca di questa serata, perché sarà importante capire cosa verrà fuori proprio dalla base della Lega. Io voglio capire se adesso per Renzo Bossi ci dovrebbe essere anche l'espulsione proprio dalla Lega, oltre che le sue dimissioni, che sono un atto volontario. Mentre gira, gira, gira nel laghetto di montagna, senza colpa né magagna. E siamo in compagnia di Fabio Rolfi, vice sindaco di Brescia, segretario provinciale della Lega Brescia, uno degli animatori della serata dell'orgoglio leghista di domani. Cosa farete? Cosa avete organizzato? Ma sarà una serata importante, direi quasi storica, per chiedere a gran voce chiarezza e pulizia. Fin dove pulizia? Per esempio Renzo Bossi deve uscire anche dalla Lega o bastano le dimissioni dalla carica pubblica? Ripeto, se accertate queste sue responsabilità, sì, deve essere espulso. Lo ha detto Umberto Bossi con chiarezza quando ha rassegnato le sue dimissioni da segretario federale. Ha detto di perseguire i responsabili indipendentemente dal cognome che portano. Per cui ci muoviamo sulla luce di quelle parole. Ecco, a proposito delle parole di Bossi, perché Bossi si è dimesso, poi dopo ha detto mi ricandiderò, insomma, fatto un po' di altalena. È possibile che lui si sia dimesso da segretario restando, se non ho capito male, presidente del partito, cioè un mezzo passo indietro? Anche su questo fronte la vostra richiesta di pulizia spinge per una chiarezza maggiore, cioè Bossi dovrebbe dimettersi da tutti gli incarichi? Ma io credo che Umberto Bossi sia storia e patrimonio della Lega, è doveroso che rimanga punto di riferimento, non solamente simbolico, e che in questa fase, come lui stesso ha detto, garantisca l'unità del movimento. Nessuno vuol dividere questo movimento, vogliamo solamente allontanare chi ha utilizzato il movimento e magari un momento anche di debolezza del suo segretario storico per farsi i cavoli propri. Questi vanno allontanati. Quindi il ruolo, garantire l'unità, vuol dire che va bene nel ruolo di presidente, cioè non più un ruolo politico di primo piano attivo, ma così a fare da pasciare tra le varie correnti, tra le varie anime che altrimenti rischierebbero di sbranarsi per la successione, Maroni e Zaia per esempio. Ogni essere umano, compresi leader politici, hanno un ciclo biologico. Bisogna che i movimenti politici vadano anche oltre il ciclo biologico dei suoi fondatori per perseguire gli obiettivi dei quali sono nati. Gli obiettivi della Lega non sono così raggiunti, la Lega continuerà. Ecco, ma insomma, questa vicenda dei conti è abbastanza incredibile. Possibile che insomma nessuno si sia accorto di nulla, a cominciare per esempio da Umberto Bossi? Lei tifa Maroni, anche Maroni che sostanzialmente subito dopo nella leadership, no? Nella graduatoria della leadership del partito. Ma io credo che persone che per tanti anni hanno avuto un ruolo politico di primo piano alla guida del paese avevano ben altro da fare che seguire le ricevute e i rimborsi della Lega. Probabilmente c'è stato un errore di valutazione sulla scelta del tesoriere, probabilmente si poteva intervenire prima quando qualche crepa si è manifestata, ricordo le notizie degli investimenti in Tanzania, come emerge dalle intercettazioni qualcuno stava cercando di farlo ma non ha avuto la possibilità di visionare i bilanci. Chi è che stava cercando di farlo? Castelli? È emerso che Castelli ha cercato più di una volta dalle intercettazioni comparse sui giornali di poter accedere ai bilanci che Belsito negava di far vedere. Questo emerge dalle intercettazioni. Probabilmente qualche errore è stato fatto. Quello che è importante oggi fare non è piangere sul lato versato, quello che è stato e la storia non si fa con il sé ma con i fatti. È quello appunto di fare i fatti che oggi chiedono a gran voce i militanti prima di tutto, ossia la pulizia che stanno cominciando a fare. Anche Rosy Mauro mi sembra di capire, insomma, è pienamente coinvolta, anzi forse in questa vicenda, e credo che voi chiediate anche il suo passo indietro. Per esempio anche dalla carica del Senato? Lo chiediamo dalla carica del Senato, lo ha chiesto pochi minuti fa Calderoli, lo chiediamo come, secondo me anche come militante, e forse sarà anche l'ora di cominciare a costruire un vero sindacato quando se ne andrà lei. Perché quello che c'era adesso, il SIMPA, che cos'era? Non era un vero sindacato? Ogni tanto frequento le fabbriche per iniziative politiche del mio movimento, non ho mai visto un rappresentante del SIMPA, forse è stato soltanto sfortunato. Ci sono alcune cronache sui giornali che dicono che per esempio all'AMSA di Milano non è mai stata convocata neanche un'assemblea dei sindacalisti SIMPA. So che però comunque, a differenza di altri partiti dove scandali finanziari ben più gravi sono avvenuti, i responsabili o i segretari sono ancora al loro posto, compreso che ha comprato una casa a Monte Carlo senza saperlo, nella Lega qualcuno ha fatto un passo indietro, quindi comunque una prova di differenza da questo punto di vista c'è, è già stata. Senta, io so che lei è tra quelli che sostengono la possibilità che Maroni diventi un po' il numero uno, non si sa se presto o tardi, ma insomma, quale Lega, che Lega dovrebbe essere la Lega del futuro, anche dal punto di vista delle alleanze politiche, per esempio? Sempre guardando al PDL, oppure cambierà tutto, anche l'orizzonte politico? Adesso c'è il governo Monti, che quindi è una cosa anche molto diversa dal passato. Ma diciamo innanzitutto che un segretario lo elegge un congresso, che non si fa da parecchio tempo, e io spero venga fatto alla svelta. Il triunvirato è una misura di emergenza temporanea, non può durare troppo lungo. Ci serve un segretario vero e proprio. Due, non trovo nulla di scandaloso che possa esserlo Maroni, che è un cofondatore insieme a Umberto della Lega e ha avuto con lui una lunga esperienza sin dall'inizio fino ad oggi alla guida del movimento. Tre, è la Lega che sarà, spero che sia la Lega che riprenda l'obiettivo di diventare il primo partito del Nord, perché per poter rappresentare il Nord con forza a Roma dobbiamo essere il primo partito egemone al Nord, che sappia interloquire con tutti i ceti della società complessa del Nord, anche i ceti produttivi, industriali, i piccoli e medi imprenditori, gli operai, e che non guardi in faccia nessuno, e che per realizzare i propri obiettivi e cioè il cambiamento dello Stato non guardi in faccia nessuno, a destra come a sinistra. Quindi diciamo la Lega del futuro, una Lega ipoteticamente guidata da Maroni, potrebbe allearsi con chiunque, teoricamente, mi sembra di capire quello che dice lei, cioè si parte da zero. Lo decide un congresso che dà la linea politica, quindi è fondamentale questo passaggio, non soltanto per eleggere i dirigenti, ma anche per discutere con i congressisti gli indirizzi e i temi che la Lega dovrà seguire e perseguire. Io dico che la Lega non è un partito di destra o di sinistra, è un partito, un movimento politico territoriale, è un sindacato di un territorio e realizza i propri obiettivi sulla base di alleanze finalizzate a quell'obiettivo. Vediamo come evolverà il quadro politico. Senta, mi ricordano che sono passati ben 10 anni dall'ultimo congresso della Lega, mi corregga se sbaglio. Più o meno sì. Ecco, ma bisognava arrivare fino a questo punto, fino a una gestione, come ha detto lei, sbagliata di questo improbabile cerchio magico che dura da anni, per con un'inchiesta così, per chiedere un cambio di passo anche politico alla Lega. Insomma, in molti hanno finto di non vedere. C'è un errore di conformismo, non so come dirlo, nella Lega. C'è stato anche da qua, bisogna ripartire per cambiare un po' orizzonte, Rolfi. Ma diciamo che la Lega è un movimento politico carismatico, legato alla figura carismatica e trascinante di Umberto Bossi. Probabilmente, come detto prima, si poteva intervenire prima e qualche segnale d'allarme qualcuno lo aveva dato. Purtroppo è inutile piangere sull'altro versato. Oggi occorre ripartire, si riparte con credibilità, dando un segnale forte di rilancio del movimento. Questo lo daremo domani a Bergamo. Insomma, ci saranno colpi di scena domani o sarà solo una cosa della base? 10 secondi. Ci saranno colpi di scena, ci sarà un grande rilancio di entusiasmo, ci sarà la Lega degli Onesti che riparte. 19:17 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, non ci siamo dimenticati di voi, tra pochissimo inizieremo con le vostre telefonate in diretta, prima però abbiamo i titoli del TG3. Renzo Bossi annuncia le sue dimissioni dal Consiglio regionale, do l'esempio, e il padre ha fatto bene a lasciare. Calderoli ora si dimetta anche Rosi Mauro. L'autista bodyguard di Renzo si confessa al settimanale Oggi. Ero il suo bancomat, quando gli servivano soldi li prelevavo dalla cassa di via Bellerio. Cresce la rabbia della base, domani sera mega raduno a Bergamo, facciamo pulizia. La sfida di Maroni, che ha usato la Lega per fini personali, va espulso. Finanziamento ai partiti, giro di telefonate Alfano, Bersani, Casini. Subito le nuove norme, una prima bozza già mercoledì. Di Pietro pronti anche al referendum. Monti, la riforma del lavoro è equilibrata e porterà occupazione. Mercoledì via al Senato. Il sottosegretario Catricalà apre a ulteriori modifiche. Il feroce massacro dei dissidenti in Siria. 1000 morti nell'ultima settimana e i soldati di Assad sparano su un campo profughi in territorio turco. È morta a 86 anni Miriam Mafai, una vita tra giornalismo e politica, dalla resistenza ai saggi sulla storia e il costume italiani del Novecento. One true The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing that rock. Everybody loves. Ancora non tintinnano le manette, ma insomma, Jailhouse Rock, il rock della prigione, non è per il fatto che si parli di prigione, che l'abbiamo fatta sentire, no, è perché dobbiamo parlare di chi? Di Pierre Moscogiuri, in arte Pierre Mosca, che amava, l'ex, insomma, il compagno di Rosy Mauro, amava fare musica, i suoi CD venivano venduti alle feste della Lega, amava fare musica, ed è anche lui, insomma, rientra tra le spese pazze della Lega, perché pare che Rosy Mauro, coi soldi dei rimborsi elettorali, la vicepresidente del Senato, e insomma, non so come definirla, numero qualcosa della Lega, del cerchio magico sicuramente, tra le varie cose, oltre a spese sue, si fosse preoccupata anche del Pier Mosca, pagandogli gli studi in un'università, non so se anche questa volta all'estero. Abbiamo già detto che per il cerchio magico, per quelli della Lega, il diploma era diventato una fissazione, dovevano avercelo tutti, anche il Pier Mosca. Giudicate voi, adesso vi facciamo sentire la versione sua della canzone di Elvis Presley che lui amava interpretare, se le sue performance canore erano all'altezza di essere poi proposte, per esempio nelle feste della Lega, i suoi CD venivano venduti e lui insomma intascava anche dei bei soldini. Allora sentiamo la versione del Pier Mosca. Se la cava maluccio, devo dire, forse era meglio come cantante che come consulente del Senato, perché la Rosy Mauro si era preoccupata anche di questo, di fargli avere una consulenza, non so in che campo, in che settore, al suo Pier Mosca, il suo compagno, l'ex poliziotto, insomma, che aveva fatto strada stando con lei. Chiedono le sue dimissioni di Rosy Mauro a gran voce, molti esponenti della Lega, della base della Lega, domani si riuniranno a Bergamo per la serata dell'orgoglio leghista. Intanto sentiamo qualche voce. Avete sentito prima il titolo del TG3, Calderoli, e di poco fa la notizia, uno insomma degli esponenti di primo piano della Lega chiede il passo indietro di Rosy Mauro e lo chiede anche Matteo Salvini. La decisione di Bossi è il preludio anche alle dimissioni di Rosy Mauro e Belsito? Immagino. Lo spera? Immagino proprio di sì, fossi in loro l'avrei già fatto. Si dimette il segretario del partito che sono sicuro non ha mai intascato un euro in 30 anni e non è responsabile di quello che sta accadendo, a maggior ragione coloro che invece parrebbero esserci dentro, immaginavo ne avessero tratto prima le conseguenze. Qual è quello Pier Mosca? Sì, questo è il Pier Mosca, sì. No, non è malaccio, l'effetto forse l'effetto complessivo non è male, ripeto, forse era meglio se continuava a far musica che non avventurarsi nelle consulenze per il Senato, chissà con quali titoli poi, è incredibile. Adesso, prima di dare voce agli ascoltatori all'800 24 0024, apriamo anche brevemente il capitolo finanziamento ai partiti, perché tutti i partiti adesso, insomma, sotto il peso di questo scandalo che ha investito la Lega, ma anche di quello, non dimentichiamolo, che ha investito la Margherita, quindi una parte del PD, l'USI, anche lui il tesoriere, ecco, si parla di questo argomento, ci sono delle proposte, qualcuno dice che di proposte ce ne sono fin troppe depositate in Parlamento, poi naturalmente non si fa nulla perché insomma i rimborsi sono oro per le casse dei partiti, però forse davvero stavolta è arrivata la volta giusta. Sentiamo Giachetti del PD con la sua proposta. Dico semplicemente, per quanto riguarda il finanziamento pubblico, a mio avviso quindi il problema è che va abolito così com'è, va data una piccola, diciamo, percentuale standard a tutti i partiti che sia effettivamente di rimborso, e poi per vedere e incentivare i partiti a tornare a radicarsi effettivamente non solo sul territorio ma anche sulla propria proposta politica, io propongo, lo farò anche attraverso un emendamento se ci riesco a modificare il 49, che si metta una formula del 5 per 1000. qualcuno giustamente in redazione mi ha fatto notare, ma chi glielo dà il 5 per 1000 ai partiti di questi tempi, quando veramente la fama dei partiti è finita sotto i tacchi delle scarpe? Vabbè, questa è la proposta di Giachetti del PD. Mario Giordano, direttore di TGcom 24, bisogna affamarli i partiti perché sono ingrassati troppo, sentiamo. È una situazione che non si può tollerare, bisogna immediatamente affamare i partiti, bisogna affamare i partiti, bisogna affamarli, bisogna farli fare la cura dimagrante, una cura severa, sono troppo grassi, sono grassi. Questo è Pier Mosca, attenzione, la versione di Pier Mosca. E questo invece è l'originale. Insomma, anche qua a me sembra che funzioni. Insomma, Pier Mosca era bravino come musicista. Non lo so, giudicate voi se era giusto che i suoi CD venissero però venduti, i suoi, le sue produzioni, nelle bancarelle delle feste della Lega, in primo piano. Lui si sarà messo in tasca anche dei bei soldini, il compagno di Rosi Mauro. 19 24 800 24 00 24, direi che sentiamo finalmente qualche ascoltatore. Cominciamo con Giovanni che ci chiama da Pavia, buonasera. Buonasera, niente, io volevo parlare l'altra sera, ma poi dopo la trasmissione andiamo proprio avanti e parlo stasera. Comunque, buonasera a tutti innanzitutto, poi sì. Volevo dire una cosa. C'era dentro Bossi, suo figlio, l'altro suo figlio, la moglie, mi sembrava la famiglia di Saddam Hussein. Pronto? Pronto, la sentiamo. In che senso la famiglia di Saddam Hussein? È come Saddam Hussein, c'era dentro tutta la famiglia, no? Poi dopo adesso dicono, no, ma Bossi non c'entra niente. Ma secondo me Bossi sapeva e c'entrava dentro anche lui, se è così. Poi io non è che sono lì, però mi sembra una cosa non troppo bella. Insomma, è un po' difficile credere che lui non sapesse proprio nulla. Insomma, c'è di mezzo la malattia in questo caso e il fatto che lui sia affidato a tutta questa gente, sì. Perché per fortuna che in Italia c'è la democrazia, se no qua questa prepotenza qua non è una cosa bella. Poi non è neanche giusto che uno ha un figlio, lo manda a studiare, gli prende una laurea, cioè è intelligente e tutto, non trova un posto di lavoro. Quando un coglione qualsiasi qua in Italia basta che sia appoggiato da un politico o da qualcheduno è subito lavoro in regione, poi non gli sta neanche bene perché 5-6 mila euro al mese fanno anche schifo, cioè voglio dire, e invece un poveraccio va a lavorare, o uno che ha studiato una vita va a lavorare ai primi tempi per 1000 euro, se le prende. Questo è quello che voglio dire, l'ingiustizia italiana. Devo dire, grazie Giovanni, devo dire che in effetti quella del figlio in politica, così come il figlio di Di Pietro, insomma, è veramente una trovata che insomma non poteva funzionare. Eppure c'era chi ci credeva. Adesso se la trovo la dichiarazione che avrei voluto leggerla prima a Fabio Rolfi, non la trovo però, una dichiarazione che credo che fosse di Reguzzoni di qualche tempo fa, un altro esponente della Lega che adesso è capogruppo alla Camera della Lega, e quindi insomma qualcuno l'aveva detto, ha fatto carriera perché è entrato nel cerchio magico. Evidentemente un po' sì, perché si lanciava in elogi del Trota prima che venissero fuori anche molte delle sue gaffe, e diceva uno così ce l'ha nel sangue, insomma bisognerà che i militanti lo capiranno, farà strada, ci porterà il sole dell'avvenire e qualcosa del genere. Insomma, invece credo che in un paese come l'Italia, dove insomma, uno dei problemi è anche quello dell'essere figli di lo dicono tutti, del non promuovere abbastanza la meritocrazia, insomma questa cosa suonava già molto male all'inizio. Vabbè, va bene, cosa mi suggerite? Adesso vediamo. Intanto Maurizio da Firenze, prego. Sì, buona Pasquetta. Sì, buona Pasquetta. No, dalla regia mi suggerivano qualcosa, adesso leggo. Intanto Maurizio, prego, sì. Niente, volevo dire insomma che continua il magna magna, proprio detto all'italiana. Non è cambiato niente dalla prima repubblica alla seconda. Non valeva neanche la pena cambiare nome, prima, ecco. Seconda, dice lei. Sì. Bravo, non è cambiato proprio niente. Niente, io telefono da Firenze, sì. E voglio dire la mia... su questa cosa qui, prima di tutto bisogna che cambiano la legge elettorale, perché se no io sono uno dei tanti che è dal 2005 che mi astengo dall'andare a votare per via di questa legge, scusami, passatemi la parolaccia, di M puntini puntini. Spero che ce la facciano a cambiare, vediamo cosa hanno in mente di fare. Per lei la legge elettorale è cruciale, insomma, per ridare la possibilità ai cittadini di scegliere. Sì. Ci sarà una legge elettorale e ora dovremmo andare alle amministrative, noi a maggio dovremmo andare alle amministrative con questa legge, io il sindaco lo voglio scegliere io, no che mi debba essere imposto dal partito, il partito, cioè voglio dire, io voto la persona, devo votare la persona, devo conoscere la persona, se è una persona affidabile, se è una persona che appunto magna poco o magna parecchio, si torna sempre al solito discorso. Che qui si cambia partiti, si cambia, ma la musica non cambia. Vabbè, poi, l'hai chiamato per dire questo, insomma, Maurizio. Poi il lavoro sì. È cambiato da tre monti a un monte solo, ma... Vabbè, anche questa è stata già detta, però, Aspetta questa faccenda della crescita, però tutto si fa. A giro per il mondo, in Israele, qua sotto sopra, però questa crescita se ne parla. Intanto vabbè, non c'entra nulla, però, la visita in Israele di Monti, queste sono visite rituali che fanno i capi di governo. Non è che c'entra col fatto che non c'è la crescita. Grazie Maurizio. Leggo per onore del vero la dichiarazione che avevo citato prima a memoria di Reguzzoni a proposito di Renzo Bossi. Non so che anno fosse, diceva Reguzzoni a proposito del Trota. È chiaro che uno che è nato e cresciuto così ha il nostro progetto di libertà nel sangue ed è per questo che i nostri militanti veri, fuori da logiche di potere e palazzo, vedono in Renzo una speranza per il futuro. Uno così non può non tradire, non può non vendersi. Tra l'altro, chissà perché gli era venuto in mente di usare proprio questa espressione. La zanzara. Ancora con le performance del Pier Mosca, l'ex poliziotto, il compagno di Rosy Mauro, i cui CD venivano venduti alle feste della Lega e spopolava anche su Radio Padania, insomma gli hanno dato una mano a vendere i suoi CD, a vendere la sua musica, insomma chissà se ne valeva la pena, oppure insomma, ecco, questo è l'originale, ditelo voi, confrontatelo voi, fateci sapere. Meglio come musicista, io dico meglio come musicista che come consulente del Senato. Io non so perché era consulente del Senato, per quale ragione Rosy Mauro gli ha fatto avere la consulenza. È evidente che gliel'ha fatta avere per questioni di amicizia, ma non so nemmeno per quale motivo. Insomma, poi si dice che l'Italia va male, ci credo. Gente di questo livello. No, vabbè, non abbiamo nulla contro di lui per le sue qualità di cantante o di cos'altro. Però insomma, stanno emergendo dei particolari un po' agghiaccianti in questa vicenda. Per esempio, c'era anche nei titoli dei telegiornali il racconto di Alessandro Marmello, che è autista e bodyguard di Renzo Bossi, che diceva: ero stufo di essere il suo bancomat personale, andavo alla sede della Lega, prendevo i soldi, lui mi dava gli scontrini, io prendevo i soldi, li riportavo, è andato avanti così per un bel po', e lui ha registrato addirittura tutto questo con dei video che adesso sono in giro, magari tra poco ne sentiremo un passaggio. Prima abbiamo sentito il primo, adesso però riprendiamo con qualche ascoltatore. Chi abbiamo che aspetta da un po'? Erminio da Milano? Erminio, buonasera. Buonasera, da Bollate. Da Bollate, sì, prego. Io ho votato più volte Lega, non sempre, ma numerose volte Lega. Voglio dire due cose principalmente. La prima è che ci credo il giusto a queste storie della Lega che vengono fuori solo adesso in previsione delle elezioni amministrative. E la seconda cosa che volevo segnalare, volevo comunque che lei mi aiutasse a riflettere, che a seguito delle dimissioni del segretario, mi sembra che è strano che sono gli unici che si dimettano in questo partito, mentre gli altri partiti, penso alla maitressa che sta sempre in consiglio regionale, che non si è dimessa. Quindi volevo sentire una sua opinione su questo. No, non ho capito l'opinione che lei chiede su che cosa esattamente, poi la giriamo anche agli ascoltatori, cioè sul fatto che... Tutti contenti che Bossi, sì, segretario, si è dimesso, che il figlio di Bossi si è dimesso, ma nessuno fa un paragone, un riferimento o in passato a voi stessi, vedi che le dimissioni della signora Minetti che siede a fianco a Bossi nel consiglio regionale. No, no, ma è giusto farlo, lo sta facendo lei benissimo. Io ho fatto sentire la voce di Renzo Bossi che ha ricordato tutto questo, ha detto: io mi sono quantomeno dimesso e sono non sono nemmeno indagato. Questo è vero, noi l'abbiamo detto in apertura del programma. Altri sono plurindagati e non si smuovono, non mollano le loro poltrone. Questo sicuramente è vero. E lei ci ha aggiunto del suo. Perché la Minetti in particolare? Perché la Minetti, se potessi dire, non mi sta simpatica, perché la Minetti credo che sia, se Renzo Bossi è ignorante, sono d'accordo con lei, ma la Minetti credo sia ancora più ignorante, ancora meno meritevole del suo posto di lavoro, del suo posto insomma in consiglio regionale. Quindi personalmente insomma da cittadino sì, mi sento ancor meno rappresentato dalla Minetti che da Trota Bossi. Va bene, io non ho detto che Renzo Bossi è ignorante, io ho fatto sentire e lui si faceva male da solo. Risentiamo per esempio l'intervista dalla Bignardi quando lui di fronte alla domanda ci dica tre valori in cui credere, e lui poverino non sapeva cosa rispondere. Allora queste domande sono domande che i politici insomma subiscono, domande semplici, domande banali anche, e lui era talmente fuori luogo in tutto questo che sentite come ha risposto. Tre valori in cui credi. Allora, l'onestà sicuramente prima di tutto, poi vediamo, no, perché l'onestà credo sia uno dei valori più importanti. Veloce, altri due. Ma non saprei. Mentre gira, gira, gira nel laghetto di montagna senza colpa né magagna. Cioè, che poi voglio dire, proprio l'onestà gli è venuto in mente di dire. L'unico che gli è venuto in mente di dire, evidentemente, è stato freudiano, perché insomma, se è vero tutto quello che abbiamo letto, naturalmente abbiamo forse il dovere di sospendere il giudizio fino a che non sarà tutto acclarato, però insomma le voci sono talmente convergenti. Come gli è venuto in mente proprio freudiano, cioè di dire l'onestà, che era l'unica cosa forse che in quel momento, vabbè, e poi non riusciva proprio a spiccicare parola. È evidente che Bossi non era all'altezza e che è stato un errore insomma candidarlo, tutto questo che è stato creato intorno a Umberto Bossi, questo cerchio magico che sta franando, non perché lo dico io, ma perché per esempio poco fa l'ha detto ai nostri microfoni Rolfi, segretario di Brescia della Lega. Domani sera c'è la serata dell'orgoglio leghista e lui ha detto ci saranno dei colpi di scena, forse insomma ci saranno delle richieste di dimissioni, chissà. Francesco da Bari, un altro ascoltatore, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera. Prego. Io volevo solo porre questa riflessione. Abbiamo un partito che era completamente, almeno nelle intenzioni, diverso dagli altri, doveva servire a riformare un po' la politica, tentare di fare in modo gli altri partiti riuscissero a riformarsi. Vi pongo questa chiave di lettura: le problematiche che la Lega ha sollevato in questi giorni ovviamente sono identiche in tutti i partiti. Beh, ma non vi sembra che Maroni, ministro degli interni, a suo tempo avesse tutti i mezzi e tutti i modi per appurare e accertare quello che sta oggi venendo fuori? Non vi sembra che siamo di fronte a una battaglia di potere? E la Lega così diversa non lo è poi da tutti gli altri partiti? Niente. Volevo una vostra così. Sì, caro Francesco, la battaglia di potere c'è sicuramente, cioè in tutti i partiti, tra correnti, questo è vero. Maroni probabilmente, non so se sapeva o se non sapeva, oggi la Iena sulla stampa dice Maroni non sapeva se c'era, dormiva, perché in effetti insomma il fatto che fosse ministro non so se basta a giustificare il fatto che fosse così lontano dalle vicende del partito da non accorgersi di quello che stava succedendo. La questione della lotta di potere tra correnti sicuramente sì, questo però non nega quello che le responsabilità che ci sono e che ricadono ahimè direttamente su Umberto Bossi, anche se molti suoi seguaci continuano a difenderlo, portano direttamente a lui. Maroni da parte sua può darsi che abbia sfruttato politicamente questa defiance di Bossi rispetto ai suoi familiari e anche a se stesso, perché alcune di queste spese gli arrivavano direttamente anche a lui, per un tornaconto politico. Ma in politica si fa così, chi sbaglia paga e c'è qualcuno che se ne approfitta. Questa mi sembra la cosa più lineare, più trasparente, più pulita anche che c'è in questa vicenda. Che poi qualcuno voglia concludere che Maroni, tutto sommato, sapendo, non avendo detto nulla, è in qualche modo corresponsabile, questo è anche un altro punto di vista. Bene, dove andiamo? Andiamo a Giuseppe che ci chiama da Chieti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, due riflessioni. Tra poco un altro ospite anche. Prego, Giuseppe. Una sul finanziamento pubblico dei partiti. Visto come sono stati spesi i soldi nel caso Bossi come nel caso Lusi, evidentemente non servono i finanziamenti, perché non solo sono stati utilizzati così, ma anche chi li doveva utilizzare per le loro finalità non se ne è accorto di che questi soldi prendevano altre vie, quindi non servono perché non gli servivano, non li utilizzavano. Se noi pensiamo che le sedi dei partiti sono pagati dai militanti, Quindi vuol dire che anche chi li avrebbe dovuto spendere non aveva necessità di farlo, quindi possono essere aboliti. Sul caso Bossi capisco che la Lega si debba stringere attorno a Umberto, però noi diciamo sempre che un padre non può non sapere se un figlio torna in Porsche, se fa delle mega feste, da dove ha preso i soldi. Se mio figlio tornasse con una Porsche a casa mi dovrebbe dire quantomeno che ha vinto un gratta e vince, me lo dovrebbe anche far vedere, altrimenti non sarei un buon padre. Detto questo, finisco con una nota, una piccolissima polemica. Del centro-sud stiamo semplicemente sorridendo, non ho detto ridendo, sorridendo dopo la valanga di parole che ci siamo sentiti dire da questi galantuomini del nord. È una piccola rivincita, dice lei, insomma, qualcuno al sud. È una piccola notizia, sì, da parte delle persone per bene del centro-sud, soltanto questo dico. Quindi ognuno, insomma, è solo una piccola riflessione. Va bene, grazie. 19.42, facciamo una piccola pausa, poi torniamo tra poco. Salutiamolo intanto con il prossimo ospite, Felice Belisario, senatore dell'Italia dei Valori. Buonasera. Eccoci qua, con lei apriamo anche il capitolo, appunto, come diceva anche l'ascoltatore, il finanziamento dei partiti, non ne hanno bisogno perché i soldi non li spendono, e in effetti è vero, voi avete depositato anche un referendum, una richiesta di referendum qualche giorno fa, ne parliamo tra poco dopo la pausa. Di nuovo in linea 800 24 00 24 con gli ascoltatori e con un ospite, l'abbiamo introdotto, Felice Belisario dell'Italia dei Valori. Prima di tutto però, prima di parlare delle proposte per la riforma del finanziamento dei partiti e della vostra proposta di referendum, io voglio chiedere, insomma, anche voi, anche in casa vostra, come vanno le cose? Niente da dichiarare, si dice alla dogana, no? Perché sa com'è, insomma, un po' tutti i partiti hanno questo problema di ricevere molto più di quello che spendono e quindi poi molti si domandano che fine fanno questi soldi. Voi per esempio, Belisario, affidate i conti a Silvana Mura? No, i conti, la tesoreria nazionale, l'onorevole Mura, i conti sono tenuti da revisore dei conti ufficiali e noi modificheremo, comunque vada a finire questa vicenda, il nostro statuto per certificare i bilanci che sono pubblicati sul sito nazionale, sì, del partito, per cui sono tutti consultabili. Però mi spieghi un attimo, perché allora io forse ho detto un'imprecisione, cioè la, Silvana Mura Mura è la tesoriera nazionale, sì, che ovviamente ha la responsabilità amministrativa del bilancio, ma c'è ovviamente uno staff di innanzitutto di revisori contabili che fanno la relazione a fine d'anno e certificano. C'è uno staff esterno al partito? O interno? No, è esterno al partito. Esterno al partito. Perché i io qua. Dei sì. Conti sono revisori contabili esterni al partito. Sì, perché io qua ho un'inchiesta, cioè un articolo dell'inchiesta, il sito L'Inchiesta qualche giorno fa sta conducendo insomma, degli approfondimenti sui bilanci dei partiti, sul finanziamento ai vari partiti, si è occupato del PDL, del PD, della Lega Nord e si è occupato anche di voi, e loro scrivono: l'amministrazione dei conti è da anni nelle mani di Silvana Mura, fidatissima collaboratrice di Pietro, che forte del diploma di perito commerciale conseguito 35 anni fa controlla le finanze del partito in assoluta autonomia, firmando ogni documento contabile senza avvalersi di consulenze specialistiche in materia. Cioè lei smentisce l'articolo dell'inchiesta. Evidentemente apprezzo l'inchiesta perché è un sito che funziona bene, però nel nostro caso la responsabilità politica è certamente dell'onorevole Mura, ma i bilanci vengono tenuti in ordine da un collegio dei revisori che li guarda, li controlla, a fine anno certifica, come lei sa i bilanci vengono pubblicati su almeno due quotidiani, uno a tiratura nazionale e l'altro a tiratura locale, poi vengono depositati alla Camera dei Deputati e lì vengono ulteriormente controllati. Per cui io mi rendo conto che in questo momento si caccia alle streghe, in cui prima la Margherita, poi la Lega, vengono tutti controllati in maniera. Beh, Belisario, però non è caccia alle streghe, sono delle inchieste della magistratura, ci sono già due casi, quindi non è caccia alle streghe, che sennò sono sempre colpa dei giornalisti. Sì. Io forse non intendevo caccia alle streghe, è giusto che i partiti, anche quelli che hanno tutto in regola, in un momento in cui è successo quanto è successo, né la Margherita e né la Lega Nord vengono giustamente messi sotto la lente di ingrandimento. Per questo noi abbiamo sempre chiesto controlli più serrati, più puntuali, e per questo noi diciamo che se la trasparenza non entra nei partiti, allora torniamo a quanto deciso dagli italiani col referendum del 93 e azzeriamo questa sceneggiata dei rimborsi elettorali. Ecco, questa sceneggiata dei rimborsi elettorali, che sono assolutamente sproporzionati rispetto alle spese poi realmente certificate. Qualcuno dice giustamente: in nessuna azienda al mondo uno che torna con spese per 100, 200, 300 euro riceve rimborsi per 1000, 2000, 3000 euro. Ma Belisario, però, quando poi si tratta di votare le proroghe e anzi di aumentare questi rimborsi elettorali, in genere no, le cronache dicono che il voto è bipartisan. Purtroppo lei guardi bene, sì, come abbiamo votato. Noi per esempio dall'inizio della legislatura, in ogni provvedimento del vecchio governo e di quello nuovo, abbiamo sempre detto che i rimborsi elettorali erano per il periodo della legislatura vivente, e che non andassero oltre un Parlamento sciolto, come è successo nel 2008. E però c'è stata da parte degli altri partiti grande resistenza. È evidente che ogni volta chiediamo nelle manovre finanziarie, lo abbiamo chiesto anche nell'ultima, sì, del 20 e del 30% la riduzione del finanziamento pubblico, regolarmente cassate le nostre proposte. E noi a questo punto, non riuscendo ad avere ascolto all'interno del Parlamento, abbiamo scelto di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare, per cui raccogliamo comunque anche un referendum, depositarlo in Parlamento, è un referendum per cancellare i rimborsi elettorali. Qualche giorno fa avete depositato il quesito, no? Che cosa chiedete esattamente? Giovedì della settimana passata. Ecco, cosa chiedete esattamente con questo referendum, col quale sostanzialmente voi, mi scusi Belisario, faccio una piccola premessa, col quale voi sostanzialmente, ce l'ha detto poco fa, ce l'ha confermato, il Parlamento sostanzialmente non è in grado di fare questa riforma perché non si può chiedere, come diceva Berlusconi in una celebre esternazione, ai capponi di anticipare il Natale, cioè non si può chiedere ai partiti di tagliarsi le risorse, e quindi voi dite: ci affidiamo alla legge di iniziativa popolare, ma soprattutto al referendum, no? Certo, se non si riesce a ottenere per la via più normale, e quindi legislatori e partiti responsabili, devono essere i cittadini a decidere. Ma c'è poco da scegliere. Noi dobbiamo agire su due livelli: il livello della trasparenza certificata, per cui sicuramente una società di certificazione che certifichi i bilanci, e in più il controllo della Corte dei Conti, l'ultimo controllo finale, noi lo abbiamo detto da tempo. E poi dobbiamo capire quali sono i canali di finanziamento di un partito. Certo, bisogna evitare che i partiti che facciano politica soltanto i milionari o i miliardari. Quindi abolire proprio il finanziamento ai partiti pubblico, lei dice no. Non se ne parla. Ma guardi, il finanziamento pubblico così com'è non funziona, lo abbiamo visto, è troppo. Però nemmeno voi dite di passare dalla padella, cioè di rovesciare completamente l'ottica e di abolirlo. Voi siete contrari all'abolizione. Dobbiamo fare un finanziamento trasparente in cui tutto deve essere annotato. Vogliamo evitare che poi a finanziare la politica siano le lobby, perché le lobby ovviamente terrebbero in mano il potere. Sì. Vabbè, anche questo è un argomento che abbiamo in effetti sentito altre volte. Belisario, la proposta per esempio del PD, di qualcuno del PD, di passare al 5 per 1000, cioè attraverso la dichiarazione dei redditi, vi vede interessati con questa possibile, diciamo, convergenza a sinistra o no? È una possibilità questa, è una possibilità. Ovviamente poi dobbiamo capire come funziona. Se ogni elettore dell'Italia dei Valori, sì, fa il 5 per 1000, oppure se gli elettori dell'Italia dei Valori firmano per il 5 per 1000 e poi vanno magari anche agli altri partiti, così non funzionerebbe. E allora va bene, però vabbè, adesso poi si entra un po' nei tecnicismi anche di una possibile riforma. Belisario, mi pare che in queste ultime settimane, può darsi poi giorni anzi, stia un po' cambiando il clima politico, tutti i segretari dei partiti, voi adesso siete fuori dal sostegno direttamente del governo Monti, però il PD, il PDL, il Terzo Polo dicono bisogna intervenire, una legge sulla trasparenza, bim bum bam. Voi sareste disposti ad appoggiarla, una legge di cui si sta parlando in queste ore, Casini, Alfano e Bersani, oppure sareste comunque alla finestra? No, no, ci mancherebbe. Noi vogliamo fare una legge seria. Poi quello di cui parlano Casini, Bersani, Alfano, sempre che non sia in qualche tunnel riservato, spero di poterlo conoscere mercoledì, giovedì prossimi, così come hanno dichiarato, e poi capire quello che vogliono fare. Speriamo che vogliano fare delle cose condivisibili. Noi sì, daremo una mano per accorciare i tempi. Il Paese chiede responsabilità e lo chiede ai partiti. Dobbiamo essere noi a fare una riforma seria, non lo deve fare il governo dei tecnici, che già fa male quelle cose che deve fare, immaginiamoci, poi se mette mano anche a questo farà un'altra cosa. Però adesso al governo ci sono loro, quindi per quello che dicevo, starete alla finestra oppure vi sporcherete le mani anche voi? Perché, No, io ho sollecitato anche io, sì, Di Pietro stesso nei giorni scorsi, è il Parlamento che ci deve mettere la faccia, e al massimo in 2 settimane deve licenziare una legge seria, concreta, che faccia dire quel 94% dei cittadini che non possono vedere i partiti politici, forse possiamo cominciare, se non a ricrederci, sì, a guardarli con attenzione un'altra volta. Belisario, tra l'altro so che in settimana dovrebbe esserci una riunione del Senato, credo Schifani assente, potrebbe toccare a Rosy Mauro di presiederla, la vicepresidente, e so che c'è fermento, molti chiedono, credo anche lei, invece che non sia così, che lei addirittura si dimetta. Lei chiede le dimissioni di Rosy Mauro? Beh, ci mancherebbe. Le dimissioni da vicepresidente vicario del Senato sono fuori discussione. Lei deve darle per risparmiare al Senato di finire un po' nel fango. Cioè, lei si difenderà, dirà tutto quello nelle sedi migliori, dirà tutto quello che dovrà dire, ma il Senato deve rimanere fuori da questa tensione infamante. Senta, come commenta la situazione politica in casa della Lega in queste ore? Tra l'altro tutti dicono è stato un errore candidare Renzo Bossi, lo dicono adesso. Voi avete Cristiano, Di Pietro, come la vivete in questi momenti questo parallelismo? Ma guardi, Cristiano Di Pietro ha fatto prima il consigliere comunale, poi il consigliere provinciale, si è misurato, poi si è candidato e ha preso le preferenze. Mio figlio non si candiderebbe per sua scelta, ma non possiamo impedire che un diritto costituzionale venga esercitato da chi ha una mission o pensa di avere una mission di poter lavorare in politica al servizio dei cittadini. Non possiamo impedire, però insomma non mi sembra che sia questo il caso, cioè, qua siamo oltre, sì. Che lo doveva impedire, cioè, Cristiano Di Pietro, se non fosse per il padre, non sarebbe da nessuna parte, questo è evidente, Belisario. Lei dice ha fatto consigliere comunale, però insomma io mi rendo conto, però abbiamo in Parlamento mogli di autorevoli politici e nessuno ne parla. Mi rendo conto che la polemica è polemica, però se non ci fossero stati i mariti probabilmente non avremmo senatrici, mogli di mariti molto importanti. Che significa? Mica sono state elette perché i mariti erano importanti, probabilmente. A volte sì, Belisario, devo salutarla qua perché abbiamo la pausa, ci sono le informazioni, c'è la pubblicità e poi torniamo dopo con i titoli dei telegiornali. Grazie comunque a Felice Belisario. Fine con la Turchia. Rapina in supermercato, preso il terzo bandito, decisiva la confessione del complice arrestato, il figlio di un carabiniere del posto. Balotelli fuori dal Manchester City, rischia la convocazione azzurra per gli europei e lui non voglio perdere la nazionale. Pasquetta con il freddo, temperature gelide, pioggia al sud, vento e anche la neve. Sarà così per tutta la settimana. I più fortunati in gita al mare con il sole. Negozi chiusi nelle città del nord che non hanno accolto la possibilità di restare aperti. Mentre gira, gira, gira nel laghetto di montagna, senza colpa né magagna, la famiglia delle trote blu. Sulla vecchia bicicletta, Varenzino con Lucietta. In questo momento di difficoltà del mio movimento, senza che nessuno me lo abbia chiesto, do il buon esempio. Faccio un passo indietro e mi dimetto da consigliere regionale. Sono fiducioso che la magistratura saprà dare tutte le risposte alle domande che oggi ci si pone. Gira, gira, gira nel laghetto di montagna. Io l'ho già detto prima, insomma, questa canzoncina non sembra scritta nel 1957 per Sanremo, sembra scritta apposta per Renzo Bossi. Si parla di trote nel laghetto di montagna, senza la magagna, insomma, e c'è pure Renzino. E va bene, questa è la dichiarazione con cui oggi Renzo Bossi, un'esclusiva tra l'altro di TGcom 24, ha reso noto le sue dimissioni a consigliere regionale della Lombardia. Un po' di commenti su Facebook all'intervista, per esempio poco fa, di Felice Belisario dell'Italia dei Valori. Dice Gianni: Belisario pubblica le fatture delle spese dell'Italia dei Valori, così ridiamo anche di te. Poi c'è chi dice, a proposito della telefonata di un ascoltatore dal sud, che dice: una piccola rivincita per noi quello che sta accadendo alla Lega. Dice Fiscal Bonzo: peccato che al sud le persone oneste sono il 2 o 3%. Poi c'è Claudio che commenta Renzo e dice: più che ignorante ritengo sia un ragazzotto confuso, privo di esperienza e senza quella furbizia che caratterizza i nostri marpioni politici. Poi Marco, e poi qui finiamo con Facebook, dice: tornerò a votare solo se le spese dei politici e della politica verranno ridimensionate, se no aspetto quando i tempi saranno maturi, allora tornerò alle urne. Adesso andiamo con Franco che ci chiama da Milano. Buonasera Franco, prego. Buonasera. Eccoci qua. La trasmissione. Ma cioè, mi sembra strano che ci sia dentro solo Renzo Bossi, perché si è parlato anche di Riccardo, cioè lui che funzionava nel partito, perché visto che c'era anche lui che ha usufruito dei soldi di questo partito. Cioè, beh sì, la differenza è che Riccardo non aveva ruoli nel partito, Renzo sì, però insomma dal punto di vista... questi soldi? Come, scusi? Cioè, anche lui ha usufruito di questi soldi. Sì, sì, ma no? Qui avere usufruito di soldi sono in tanti, poi insomma, appunto, forse i giudici faranno chiarezza. Anche per quanto riguardava il discorso dell'onorevole di prima, che secondo lui i conti del suo partito sono a posto, forse, come ha detto l'altro ascoltatore, cioè, forse è meglio che mette tutta la luce, per rideremo anche di loro. Perché qui io non sono né di destra né di sinistra, sono del centro, se a me non interessa, perché tanto ormai qui chi ruba rubano tutti, chi a destra, chi a sinistra, chi al centro, rubano tutti, chi ci rimette sono solo noi, questo è quello che volevo dire, chi ci rimette in fondo sono solo noi, grazie. Grazie a lei, cosa abbiamo, i titoli da 7, ancora no, allora Leonardo che ci chiama dalla provincia di Imperia, buonasera Leonardo. Buonasera, io chiamo da Sanremo, di professione sì. Faccio il medico, la mia laurea non me l'ha pagata nessuno, sono un dirigente medico, un dipendente, quindi faccio il mio dovere, ma io sono stanco di dover ancora ringraziare chi fa delle appropriazioni quantomeno indebite, se non addirittura dei furti, perché poi si dimette e queste sue dimissioni vengono così descritte come quasi meritorie. Questa è una mistificazione, basta. Dovrebbe esserci una legge in Italia per cui, a fronte di questi comportamenti, uno, qualsiasi ruolo rivesta, venga cacciato via. Deve essere cacciato via. Io voglio dire questo. Perché mi pare che qui, da quello che si vede, ho davanti la 7, il telegiornale, cioè soldi dati dall'autista, tutto quanto, ma voi come li chiamate queste cose? Questi sono soldi degli italiani in questo momento di difficoltà. Io come tanti ho un figlio che è un bravo ragazzo, sta mandando curriculum, si adatta, ma non riesce a trovare lavoro. E vedo quest'ignorante che grazie al padre, al partito, ha avuto cose che avrebbe dovuto gestire con attenzione, una grande fortuna, ma in mano ad un incompetente, perché oggi come oggi tante cose in Italia sono in mano alle incompetenti. E dirò di più, io sono stanco di questa situazione, io penso che... Sì. è mia intenzione sì. prendere la mia tessera elettorale e stracciarla, portarla all'ufficio anagrafe del comune di Sanremo, ridarla indietro con la motivazione che quando i partiti avranno fatto una legge elettorale come Dio comanda, quando non assisterò più a rimborsi di uno che spende 5 e riceve 20, allora me l'andrò a riprendere. Ma in questo momento il crollo della classe politica è totale. Io voglio dire questo e vi ringrazio per avermi consentito di poterlo dire. Tutto qui. Grazie, grazie Leonardo. Adesso invece abbiamo i titoli della 7, sentiamoli. Lega più che mai nella bufera. Renzo Bossi ha annunciato che si dimette dal Consiglio regionale lombardo. Do il buon esempio, dice, fa notare, lo faccio anche se non sono indagato, riferimento alle tante persone raggiunte da avvisi nel Consiglio regionale lombardo. In alcuni video pubblicati sul sito del settimanale Oggi, il suo ex autista evidenzia che aveva un uso disinvolto, Renzo Bossi, del denaro. Ero il suo bancomat, prendevo soldi nella sede della Lega e glieli consegnavo, gli davo anche i rimborsi per le spese della mia auto. La rabbia della base leghista non si placa, nel mirino c'è anche e soprattutto Rosi Mauro. Calderoli ne caldeggia le dimissioni immediate dalla vicepresidenza del Senato. Oggi incontro tra Bossi padre e figlio. Maroni annuncia, ora cambiamo il partito, domani giornata cruciale, c'è riunione del triunvirato che regge la Lega e poi a Bergamo il raduno voluto dalla base, armata di scope in nome dell'orgoglio leghista. E ora, anche a causa di quel che succede nella Lega, i leader politici accelerano i tempi della riforma dei finanziamenti pubblici e sul controllo dei bilanci dei partiti. Scambio di telefonate tra Alfano, Bersani e Casini, poi l'annuncio. Entro mercoledì, pronta una prima bozza con misure urgenti per la trasparenza. PDL propone il voto in sede legislativa in commissione. Monti visita il Museo della Shoah a Gerusalemme, condanna l'antisemitismo e poi difende la riforma Fornero. È bilanciata e rende il mercato del lavoro più flessibile e equo. Aggiunge provvedimenti duri, ma gli italiani hanno capito che ci stanno portando fuori dalla crisi. Poche ore fa vola in Egitto, ultima tappa del viaggio in Medio Oriente. In Siria l'esercito porta fuori dai confini la persecuzione agli oppositori e spara un gruppo di profughi rifugiati in un campo in territorio turco. Protesta ufficiale di Ankara. Assad snobba il piano di pace, ignora gli appelli. Ieri c'è stato anche quello del Papa. Le organizzazioni umanitarie denunciano 100 esecuzioni sommarie tra i civili. E questa sera la serata di La 7 dedicata a Dracula e poi al terremoto di 3 anni fa in Abruzzo. Dracula è il film di Sabina Guzzanti che tanto meritato successo ha avuto. Poi vedremo i nostri reportage e testimonianze esclusive su quel che è accaduto, quel che poteva non accadere e quel che si è mangiato dopo. Ben ritrovati in diretta, leggiamo anche un paio di messaggi al 349-238-6666, questa serata dedicata in gran parte alle vicende della Lega. C'è un'ascoltatrice, Anna, che dice: Cota ha tagliato l'assegno di cura a invalidi gravi come mio papà, ora siamo disperati perché i figli non possono aiutarlo e probabilmente aggiungerebbe vedere i soldi pubblici spesi in quella maniera, fa un po' rabbia. Poi c'è un altro che scrive, vabbè, se la prende con Di Pietro, se gli onesti sono come Di Pietro meglio finire le maglie al capo. E viva il Trota, dice un altro ascoltatore. Mentre i Pirla bevevano l'acqua del Po, il Trota ciulava, un grande. Marco, io dico, ognuno si sceglie gli eroi che crede, e quindi lei è liberissimo di ritenere un grande il Trota per questo. 20:11, ascoltatori, andiamo con Rino che ci chiama da Caserta. Buonasera. Rino? Non c'è Rino, andiamo. C'è Rino? No, è indaffarato. Antonio da Campobasso, buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego. No, io volevo dire innanzitutto che qui siamo di fronte al solito familismo morale italiano. Io non mi scandalizzo perché voglio ricordare qualche nome: La Malfa, Segni, Cossiga, Veltroni e D'Alema pure, mi sembra che abbiano dei padri che facevano politica. Il problema forse non è questo, la storia italiana è fatta di queste cose. Il problema è che voglio dire, queste persone, comunque parliamo di professori universitari, avvocati, professionisti, che poi hanno dimostrato anche di avere diciamo delle capacità. Il problema è oggi è il trota, e la cosa che mi fa un po' rabbia è sentire adesso nei titoli la sua dichiarazione che vuole dare l'esempio a noi italiani. Cioè oggi alla fine uno che si trova lì a fare il consigliere regionale, dopo aver collezionato nel suo curriculum 3 bocciature all'esame di maturità, in Italia oggi veramente ecco, i mezzi asini riescono a prendersi la maturità, oggi ci dice pure che ci dà l'esempio perché si dimette da consigliere regionale. Beh, però mi scusi, restiamo al tema, cioè lui non è ancora indagato da nessuna procura, è però fortemente indiziato ad aver avuto dei comportamenti molto molto scorretti politicamente, si dimette, diamogli atto di questo, no? Se no finisce che tutto al contrario di tutto. Il problema non è che si difende Bossi, è come Renzo Bossi difenda consigliere regionale. Eh beh, certo, questo sì. Questa è la questione, che poi si dimetta perché quei soldi del partito può anche non essere reato penale, insomma. Però cioè, se paga la Porsche o i suoi divertimenti, questa è un'altra questione che attiene all'etica della politica. Ma oggi sentirmi dire che Bossi per questi motivi non solo non chiede scusa agli italiani per quello che ha fatto, ma addirittura ci vuole dare l'esempio come moralizzatore della politica in Italia, onestamente da cittadino che ogni giorno esce di casa alle 7 di mattina per andare a guadagnare 1.400 euro al mese lavorando duramente, mi sento un po', voglio dire, preso in giro. Ecco, dovrebbe chiedere scusa per essere già diventato consigliere regionale senza avere un curriculum e aver dimostrato. Vabbè, insomma, grazie Antonio da Campobasso. Andiamo a Vito che ci chiama da Brescia. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io ora volevo portare un'esperienza personale, nel senso che sono stato candidato alle elezioni regionali del 2010 in Lombardia con il Movimento 5 Stelle. Il nostro movimento è l'unico, e vorrei che ogni tanto qualcuno lo ricordasse, nella storia d'Italia, che ha materialmente rinunciato ai rimborsi elettorali. Avendo avuto eletti 4 consiglieri, 2 in Emilia Romagna e 2 in Piemonte, avremmo avuto, a fronte di 10.000 euro di spese complessive affrontate in ognuna di quelle regioni, un rimborso elettorale pari a 1.700.000 euro. Ebbene, il Movimento 5 Stelle, forse l'unico in tutta la storia italiana, non credo che ci siano stati altri, ha rinunciato materialmente, coerentemente a quanto sostenuto. Quindi anche l'onorevole Belisario, vorrei dire, se loro sono contrari ai rimborsi elettorali, piuttosto che fare un referendum o altre cose, faccia il primo passo, si può fare, basta presentare una lettera alla Camera dei Deputati in cui si dichiara di voler rinunciare, come abbiamo fatto noi. L'onorevole Belisario dovrebbe ricordare anche che l'Italia dei Valori ha ricevuto 10 milioni di euro di finanziamento per il 2006 a fronte di spese accertate di 2 milioni di euro. Gli altri 8 milioni dove sono finiti? C'è un po' di attrito con l'Italia dei Valori, siete un po' concorrenti. No, è perché ero in ospite in studio, perché sì. Comunque si fanno paladini di una battaglia, sì. Semplicemente diciamo, per cavalcare l'onda. Poi nel 2008 altri 10 milioni di rimborsi elettorali e così via. Questo vale per l'Italia dei Valori ma per tutti gli altri partiti. E anche al Fabio Rossi, che avevo sentito prima che è intervenuto, tra l'altro sì, vice sindaco della mia città. Sì, segretario della Lega di Brescia, sì. Sì, domani sera organizzano questa iniziativa dell'Orgoglio Padano e hanno affittato un teatro, sicuramente un'iniziativa che avrà una grossa spesa. Dovrebbero sapere gli italiani che anche quella spesa è affrontata con soldi pubblici, perché chiaramente stanno utilizzando dei soldi del partito e i soldi del partito provengono dai rimborsi elettorali. Quindi noi paghiamo tutto questo, anche le convention, ogni volta che fanno questi mega congressi, le buffonate del Po e quant'altro, sono sempre pagati con i nostri soldi, quindi non dobbiamo pensare solo alla Porsche di Renzo o di qualunque altra cosa abbia fatto. Ecco, vorrei ricordare appunto che si può fare, quindi per chi si fa paladino della lotta contro i rimborsi elettorali, faccia il primo passo e rinuncia ai rimborsi elettorali. E va bene, grazie Vito da Brescia. Sul fatto di rinunciare ci sono altre situazioni che riguardano insomma i compensi e le spese per la politica che non si possono rinunciare. Qua lei ci invita a seguire l'esempio del Movimento 5 Stelle. Io a questo punto dico personalmente non sono del tutto favorevole invece al fatto che non ci sia un finanziamento pubblico ai partiti, perché sono tra quelli che credono che altrimenti poi finirebbero a fare politica solo quelli che se lo possono permettere. Ma va bene, sentiamo anche come la pensano gli ascoltatori su questo intervento. Il Movimento 5 Stelle della Lombardia che invita a rinunciare, ma penso che insomma in questo momento la stragrande maggioranza sia un po' su questa lunghezza d'onda. Stasera abbiamo picchiato abbastanza in casa della Lega, d'altra parte era inevitabile con le notizie che ci sono in queste ore. Adesso però cambiamo obiettivo e ci spostiamo sull'altro fronte politico. Parliamo di quello che succede in casa del centrosinistra, per esempio Palermitano, perché sappiamo che insomma i litigi in casa della sinistra sono appunto di casa, scusate il gioco di parole. E poi se questi litigi avvengono in Sicilia, a Palermo, la confusione regna sovrana, e questo anche lo sappiamo. Basta pensare a quello che è successo con le primarie in casa del centrosinistra per le elezioni a sindaco di Palermo. Però se il motivo della discussione diventa una grigliata di Pasquetta, allora io non ci capisco più niente, bisogna intervenire. Saluto Massimiliano Mazzola, buonasera. Ciao. Presidente dei Giovani Verdi Italiani, però in questo contesto, nelle vesti di candidato a sostegno di Leo Luca Orlando alla corsa a sindaco a Palermo, il regista Pietro Lacorte, tra l'altro è palermitano, quindi ci segue con particolare attenzione, ha tirato fuori una polemica sulla grigliata di Ferrandelli, candidato sostenuto dal PD, perché lei dice che cosa c'è che non va nella grigliata di Ferrandelli, Mazzola? È un po' incredibile questa vicenda, non so se riusciamo a spiegarla. Sì, allora, intanto chi mi conosce sa che è lungi da me ogni intenzione di fare polemica. Però come inizio, scusi, ma non mi sembra, perché qua sembra proprio che la polemica sia nata da nulla. No, però spiego, sì. però spiego. Allora, io personalmente sono vegano, in pratica tutto quello che mangio non proviene dalla sofferenza e dallo sfruttamento animale, e lo faccio anche perché credo in un concetto di ecosostenibilità dell'alimentazione. E va bene, fin qua uno dice chi se ne frega, cioè chi se ne importa. Sì, sì. La grigliata di Ferrandelli, lo dico io, mi faccia parlare perché aggiungo un elemento, mi ero dimenticato di dirlo. La grigliata di Ferrandelli si chiamava Born to be Grill, non so chi ha intestato questo evento ovviamente elettorale, con un titolo in effetti non granché, non proprio eccezionale, nato per essere grigliato, è un po' forte. Però insomma, se ci mettiamo a discutere di cosa mangiano i candidati, allora io le chiedo, Orlando cosa ha mangiato oggi a pranzo? Lei è sicuro di saperlo? Sì, sì. No, ma guarda, è semplice, la scelta di essere vegetariani o vegani è molto personale. Per carità, Orlando non è vegetariano come molti altri della nostra coalizione, però un candidato che in campagna elettorale comunque dice di essere vicino alle tematiche animaliste, viene a fare visita al canile, rifugi, dice di essere vicino, vuole incontrare l'associazione animaliste, quantomeno poteva scegliere un titolo diverso per un appuntamento elettorale, una grigliata. Nato per essere arrostito è una mancanza di tatto nei confronti di questi animali che vengono allevati e uccisi soltanto per il consumo umano, mentre noi eravamo invece da tutt'altra parte per una scampagnata vegana con alimenti biologici a chilometro zero, senza fare tutta questa pubblicità. Senta, però mi scusi Mazzola, ma a me mi resta forte il dubbio che tutto questo sia davvero un po' strumentale, cioè sembra che si cerchi ogni volta un pretesto per litigare, va bene, c'è la campagna elettorale, però così si dà l'impressione di una grande confusione, perché litigare su questo fa un po' ridere, non lo so. Avete letto comunque quello che ho scritto io sono stato molto tranquillo, semplicemente detto che è stato veramente insensibile dare un titolo a un evento del genere, soprattutto per chi dice di essere vicino alle tematiche nostre. Io sono un antispecista, animalista, sì. Quindi io non credo assolutamente che ci sia alcuna differenza fra le specie. Però insomma, cosa ha mangiato a pranzo Orlando lei non lo sa, quindi no, ma non dico questo, sì. Però Orlando non ha fatto un evento chiamandolo nato per essere arrostito. Cioè questa è la quindi forma, per voi conta il messaggio, insomma, ha passato un messaggio che in effetti devo dire il nome non era granché, ma chi l'avrà pensata questa Born to be Grill? Ferrandelli ha specificato che non è un'iniziativa organizzata da lui, che tra l'altro credo che insomma abbia qualcuno che gli cura l'immagine, cioè, sì, ma questo è assolutamente chiaro che lui abbia detto una cosa del genere, però è gestito dalla sua squadra e lui stesso aveva annunciato ieri che sarebbe stato presente a questo evento, è chiarissimo. Va bene, insomma, Mazzola, niente, noi volevamo capirci qualcosa. Io resto la forma, cioè io perché io sì. non posso contestare l'alimentazione di qualcuno, perché, come ripeto, è una scelta personale e noi siamo qui anche per sensibilizzare, è soltanto la forma. Però lei è sicuro, insomma, che non si poteva trovare un argomento di discussione un po' più forte, un po' più solido, un po' più che interessi gli elettori, anziché lasciare questa sensazione di caos? No. Ma per carità, oggi c'era questo, noi veniamo da una forte contestazione sulle primarie palermitane che sono state inquinate e quindi le abbiamo assolutamente ritenute non valide. Quindi oggi è successo questo, ma noi veniamo da altro, non è che ci siamo svegliati oggi. Insomma, si vive un po' la giornata, finita la questione delle primarie, adesso si affrontano altri temi, e tra cui anche questo. Sì, ma noi parliamo di green jobs, di conversione ecologica dell'economia e quant'altro. Oggi è successo questo perché siamo nel giorno di Pasquetta. Ma va bene, magari altro. Poi sono io, grazie Massimiliano Mazzola, io la ringrazio per essere stato con noi, magari sono io che sono poco sensibile ai temi cari agli animalisti, per esempio, e quindi chissà, ascoltatori 800 24 00 24, vediamo di capire se questa polemica può avere un fondamento oppure se lascia un po' sconfortati, come è nel mio caso. Rino da Caserta, riprendiamo con gli ascoltatori, prima l'avevamo persa. Rino, c'è adesso? Sì, ciao, buonasera. Salve. Buonasera, prego. Senta, no, io mi volevo intervenire sulla questione dei rimborsi elettorali della Lega. Io sono Ma lei l'ha capita questa cosa qua dei vegani, della grigliata di Ferrandelli? Sinceramente no, non l'ho seguita questa faccenda. Neanche io, va bene. Beh, prego Rino, sì, prego con gli altri argomenti. Allora no, io sono d'accordo con lei che è opportuno che i partiti abbiano il rimborso elettorale, anche se devo dire che preferisco l'atteggiamento del Partito 5 Stelle alla doppiezza dell'Italia dei Valori, perché l'Italia dei Valori ha fatto una battaglia contro il rimborso dei partiti, però quando poi è arrivato il rimborso ha detto no, noi ce lo prendiamo, perché mentre il Partito 5 Stelle ha rinunciato. Mentre per quanto riguarda il discorso pubblica amministrazione, lo dico da piccolo imprenditore, cioè noi lavorando con la pubblica amministrazione aspettiamo 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi per essere pagati, i partiti immediatamente vengono rimborsati senza nessun tipo di controllo. E poi una cosa sulla base della Lega, a me sinceramente dispiace perché sono stati presi in giro gli elettori della Lega davanti a questi che ce l'avevano duro e che parlavano, però vede già nel linguaggio hanno cambiato atteggiamento, perché prima Roma era ladrona, adesso Roma è farabutta, perché i ladroni abbiamo scoperto che stanno anche in altre aree geografiche. Sì, non si può più dire in casa della Lega, tant'è vero che non so più esattamente dove, uno degli striscioni in una delle località tradizionali della Lega, delle scritte sui muri è cambiato, ladroni in casa nostra è apparso, e quindi Roma ladrona. Però Bossi l'ha detto l'altro giorno, ha detto Roma padrona, Roma ladrona. Però Bossi è un po' fuori fase in questo periodo. Guardi, sì. Io chiamo da Caserta. Sì. Maroni ha dato la dimostrazione, però questo lo devo dire per onestà intellettuale, ha dato la dimostrazione di essere una persona seria. Lo dico perché noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle che lo Stato, quando decide, riesce anche a raggiungere gli obiettivi, e Roberto Maroni da ministro degli interni ha ottenuto dei risultati e noi l'abbiamo visto contro la criminalità organizzata con Roberto Maroni, una cosa che non si è mai verificata, tanti ministri degli interni, tante persone autorevoli, Roberto Maroni ha dimostrato che probabilmente la Lega ha un po' di cultura politica al di là delle lauree. Sì, molti, grazie Rino, molti lo attendono a questa prova perché molti condividono un po' quello che il suo giudizio, e sarà probabilmente una lega diversa, forse meno urlante, meno, qualcuno dice, meno sgangherata, più con lo stile di Maroni, appunto, che ha uno stile diverso, ha forse anche dei contenuti. Si tratterà poi di vedere quanto questa Lega avrà appeal sull'elettorato della Lega, che da questo stile bossiano invece era completamente affascinata e infatuata. Abbiamo un altro ascoltatore che è Fabio, che ci chiama da Roma. Buonasera, prego. Ascoltatore che è Fabio, che ci chiama da Roma. Però abbassi la radio perché c'è un ritorno di diversi secondi. Fabio, ci ascolti al telefono, altrimenti... Senti, io volevo, siccome avevo chiamato, devo andare in linea subito dopo Belisario, volevo tornare sull'argomento dei rimborsi e quant'altro per dirvi che ho trovato la soluzione a tutto. Grande. Molto facile. Sì. Siccome abbiamo visto che i nostri politici, tutto sommato, non vogliono rinunciare a nulla di quello che hanno avuto e che si sono dati negli anni, ma veramente di tutto di più si è sentito, oramai anche i partiti che erano onesti abbiamo visto che tanti non lo sanno. Allora io propongo a tutti gli ascoltatori di non andare a votare, non solo, ma di non pagare manco più le tasse, perché se questi soldi ce li teniamo noi e li spendiamo in economia reale, l'economia gira. Se invece paghiamo le tasse, se li mangiano, se li rubano, li portano all'estero, li sprecano e l'economia reale non ha più neanche questi soldi. Come evitare la mia idea? Seriamente, irrealizzabile, Fabio. Che c'è? Cioè, come si fa a realizzare questa cosa qua? Fabio. Autoriduciamoci le aliquote, non dico di non pagarle proprio. Paghiamone solo la metà, che sono poi i costi reali della politica, perché i costi reali della politica sono la metà di quello che ci fanno vedere. Sono anche relativi a tutto il magna magna e lo spreco. Quando vedono che gli italiani si sono svegliati e pagano la metà delle tasse che ci chiedono e manco vanno più a votare, io sono sicuro che cambia tutto nell'arco di 6 mesi. Va bene, Fabio, comunque insomma adesso abbiamo un governo molto diverso da tutti i governi che ci sono stati prima. Uno può criticare il governo Monti, il ministro Fornero per le dichiarazioni, le esternazioni, la riforma del lavoro, di quello e di quell'altro, però sicuramente è un fatto che questo è un personale politico non partitico e quindi forse c'è la possibilità che anche sul fronte dei finanziamenti ai partiti qualcosa cambi, che ne so. Certo, se non succede adesso, mi viene difficile a pensare che possa succedere in un altro momento, anche se poi naturalmente in Parlamento siedono gli stessi partiti che c'erano prima e ci saranno anche dopo. Mentre gira, gira, gira nel laghetto di montagna, senza colpa né magagna, la famiglia delle trote blu. Sulla vecchia bicicletta, Renzino con Lucietta. In questo momento di difficoltà del mio movimento, senza che nessuno me lo abbia chiesto, do il buon esempio. Faccio un passo indietro e mi dimetto da consigliere regionale. Sono fiducioso che la magistratura saprà dare tutte le risposte alle domande che oggi ci si pone. Gira, gira, gira nel laghetto di montagna senza colpa. Insomma, oggi la notizia è questa, le dimissioni di Renzo Bossi, però domani c'è la serata dell'orgoglio padano a Bergamo e qualcuno chiederà che Renzo Bossi esca proprio dalla Lega, sia espulso dal partito, perché insomma sono comportamenti che non sono più sopportabili, stanno emergendo varie talpe, varie gole profonde, stanno raccontando di tutto. Per esempio c'è, abbiamo già detto, Alessandro Marmello, che è l'autista bodyguard di Renzo Bossi, che ha dichiarato al settimanale Oggi ero il suo bancomat personale, l'ha detto con proprio un'aria rassegnata, cioè lui praticamente andava alla sede della Lega con gli scontrini che gli dava Renzo Bossi, tornava con i soldi, li consegnava a Renzo. Abbiamo un audio di Marmello per far sentire, lui si è registrato in una di queste momenti in cui in macchina verosimilmente Renzo gli dava gli scontrini, poi lui tornava coi soldi e registrava tutto questo perché evidentemente era stufo di sopportare questa situazione. Sentiamo. Ora vi farò vedere come lui adesso prenderà 50 euro da uno scontrino che mi ha dato. Ovviamente non sono le uniche che lui ha preso. Scontrino di benzina della sua macchina, 50 euro. Sono un cretino, mi sono preso un jeans. Invece sono andato a curare un ospedale. No, io ti ho preso scontrini, borsi, le ultime cose. Te sei a posto. Che diletto, che scompiglio. Te sei a posto, dice alla fine di questa conversazione. Si sente male, però si capisce, insomma, non lo so che valore abbia questa testimonianza, però quello che si capisce è che c'è questo passaggio di scontrini. Renzo che dice: ho dimenticato nei jeans, ho cambiato i pantaloni, non so esattamente, però queste dichiarazioni Marmello le ha depositate, insomma le ha rilasciate a settimanale Oggi, basta andare su internet, sono da tutte le parti. C'è da dire che questo gesto delle dimissioni, anche se probabilmente verrà superato dalla spinta della base leghista, che chiederà appunto a Renzo Bossi di uscire dal partito, ma anche a Rosi Mauro, a Belsito e ad altri. Probabilmente insomma le pressioni ricadranno anche su Umberto Bossi. C'è da dire che questo è un gesto che apre, io ho detto, ancora di più il solco per esempio con gli ex alleati o ancora attualmente alleati, non si è capito bene, del PDL, che insomma in una situazione del genere ve lo immaginate Berlusconi e Cicchitto, io ho detto, o Verdini o chi per loro, a dimettersi ancora prima di essere indagati solo per il sospetto? In caso del PDL questo non avviene praticamente mai. Questo gesto invece di Bossi secondo me allarga ancora un po' le differenze, il solco in questo senso. E lo stesso Renzo infatti si come dire, si attribuisce almeno questo, datemi atto, e lo dice, l'ha detto oggi: io mi sono dimesso senza ancora essere indagato, però in Consiglio regionale lombardo, non ci dimentichiamo, c'è un sacco di gente indagata che è ancora al suo posto. Renzo: sono assolutamente sereno, so cosa ho fatto e cosa soprattutto non ho fatto, ma soprattutto non sono indagato. Lei è uno dei pochi comunque a non essere indagato in questa vicenda. Sì, ma soprattutto in Consiglio regionale direi che negli ultimi mesi ci sono stati diverse vicende giudiziarie che hanno portato a essere indagate più di una persona. Io non lo sono, ma credo sia giusto e opportuno in questo momento per il mio movimento fare un passo indietro. Per Lucette, per Renzino. Renzino, questa canzoncina del 1957 di Sanremo che sembra scritta apposta per quello che sta accadendo in queste ore. Sentiamo, a proposito di quello che si muove nella base della Lega, Gentilini, un notissimo esponente della Lega di Treviso, che ci va giù pesante. Sentiamo. Personaggi equivoci, i quali hanno capito che si poteva mettere la mano sulla marmellata. Sai quella marmellata famosa di cui io parlavo nel 94? Chi tocca la marmellata taglio le mani. Mentre gira, gira, gira nel laghetto di montagna senza colpa. Insomma, la Lega non ha mezze misure, quindi adesso che si è scoperchiato questo vaso, che si è, sono abbattute queste dighe, ci sono commenti anche pesanti, tagliare le mani a chi ha messo le mani sulla marmellata. Però insomma è vero quello che ha detto qualcuno, possibile che fino a che non erano emerse queste cose sulla stampa per via di queste inchieste, nessuno nell'entourage della Lega si fosse accorto di niente. Solo voci sparute, veramente. Castelli dice che aveva chiesto chiarimenti a Belsito, però poi qualcuno gli ha detto: ma perché Castelli allora non ha fatto qualcosa? Dice: ah, perché per me Belsito era comunque il miglior tesoriere che si potesse avere in quel momento. E allora insomma il problema è un po' in casa della Lega, c'è di un conformismo, chiamatelo come volete, il partito carismatico, insomma tutti hanno un po' chiuso gli occhi di fronte a quello che stava accadendo e che era sotto gli occhi di molti, se non di tutti. Allora 800 24 00 24, riprendiamo con gli ascoltatori. Alessandro da Prato, buonasera. Sì, buonasera, volevo solamente dire che penso di interpretare il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani. I politici ci hanno veramente stancato, basta, rubano, non capiscano nulla, sono ignoranti, sfruttano, hanno le mani nella marmellata, come ha detto il venuto di prima, basta, siamo veramente pieni. Io suggerisco a tutti gli italiani che stanno ascoltando di non andare più alle urne, di non votare, di astenersi a votare fino a che non arriva una classe dirigente giovane preparata di amministratori che amministrano il paese, non devono fare altro. Grazie. Alessandro, grazie. Andiamo a restiamo in Toscana, a Pistoia, da dove ci chiama Doriano. Sì, anche lei è sconfortato come Alessandro? Oppure insomma, perché poi io l'ho detto a proposito dei direttori leghisti, mi scusi, poi la faccio parlare. Cioè, non è che si può insomma, far finta di non aver visto proprio nulla, poi adesso tutti scandalizzati, insomma. Sono cose che erano un po' sotto gli occhi di chi le voleva vedere, e la politica si regge anche su questo genere di maneggi. lo sappiamo tutti. Poi si tratta di scegliere quando si va alle elezioni. Ora ci sono elettori della Lega, lo scrive bene Galli della Loggia oggi sul Corriere e anche l'altro giorno sulla Stampa Ricolfi. Ci sono una parte degli elettori, non solo della Lega, sennò poi se la prendono con me, che degli elettori in generale, che sono talmente fanatici, fans dei loro partiti, che non vogliono proprio vederla la realtà, votano con la pancia, con l'ideologia, non lo so, e che quindi insomma poi al momento di scegliere sostanzialmente non scelgono. E allora usiamola questa facoltà della scelta, se no i siamo noi. Doriano, prego. D'accordo. Io ho 63 anni, ho militato fin da ragazzo nella DC, fino alla mattina alle due riunioni, poi andavo a lavorare 7:30 e tuttora di base sono impegnato, perché la politica si fa a noi, secondo me, giorno per giorno, essere attenti. Dice, non si va a votare, allora cosa si rimedia? Ci vuole, dice, una politica, dei politici nuovi. E chi li crea questi politici nuovi? Io dico, rimbocchiamo. Bravissimo Doriano, è proprio così. Cioè, poi alla fine torna tutto nelle nostre mani. Bisogna scegliere in modo migliore, eventualmente anche impegnarsi in prima persona, perché altrimenti saranno sempre altri che noi poi giudicheremo per quello che fanno e per gli errori che fanno. Ma non è così, prego. Sì. Ecco. No, perché io sono documentato, nel senso che ho passato una vita. Vi faccio alcuni esempi, no? Visto che sono qui in macchina. Allora, condannato, corre come onorevole, Busto Arsizio, la Cassazione ha confermato 3 anni, per Antonio Tommasini, Forza Italia, l'ha candidato. Vito, ex democristiano, c'era anche una DC, condannato a 24 mesi per finanziamento illecito, corruzione e voto di scambio. Reo confesso, diede restituì 5 miliardi, passato onorevole con Forza Italia. Volevo dire, tanta gente qua condannata, ma la gente vota. La Minetti l'hanno votata, i Fiori Bossi l'hanno votato, ma dov'è la cittadinanza? Dove siamo? Ecco, io dico, facciamo politica noi, ricominciamo a fare politica democraticamente, essere attenti e farsi sentire dai propri partiti e non votare a modi tifosi. Purtroppo si vota a modi tifosi, ecco. Secondo me, fermo restando responsabilità che ci hanno, per carità, però noi si deve essere sovrani, noi popolo, andare al partito democraticamente, scegliere, fare pressione, esserci e votare. E no, essere così non si vota, non si paga le tasse, a parte che io sono commerciante, tra virgolette, ho sempre pagate, potrei non pagarle, ma ci sono tanti dipendenti che le pagano fin da ultimo. Se che volevo dire, anche questa proposta è abbastanza qualunquista, mi rattrista a me questo qualunquismo. Si avrebbe un potere noi in mano, democratico, se noi cittadini si scendesse veramente con i propri tempi, naturalmente, ma si fosse più presenti. Ecco, secondo me manca l'assenza dei cittadini, riappropriamoci della politica, per la politica è tutta la politica. Grazie Doriano, e allora le dedichiamo, rimettiamo la musichetta. Mentre gira, gira, gira. Perché, insomma, io insisto, c'è gente che ha votato Renzo Bossi nella buona fede, nella fiducia sicuramente, forse come diceva Reguzzoni, l'abbiamo anche letto, uno che è nato nei nostri valori non può che portare avanti i nostri valori, ma non era così e c'era modo di accorgersene, insomma, che qualcosa non andava. Sentiamo un po' il Renzo Bossi esternatore, che avrebbe dovuto mettere qualcuno forse sull'avviso. Beh, la Padania oggi comprende anche l'Emilia Romagna, la Toscana. Oggi in Emilia, l'Emilia credo possa essere quella quarta gamba della Padania. Non parlerò di politica, ma della mia squadra, la Nazionale Padana. Abbiamo giocato in Lapponia un anno fa, siamo tornati da campioni del mondo. Io stesso uso questi nuovi media, i social network come Facebook e Twitter, di fatto sono un fondamentale presidio di un pluralismo. La prota è anche scherzosa, mi è sempre piaciuta, tra l'altro qualche gruppo di giovani padani l'ha anche messa sulla maglietta la prota. Mentre gira, gira, gira nella... Cioè, qui c'è una questione politica e morale. Non abbiamo paura di certo di lasciare le poltrone, non siamo qui per questo. Fratelli Padani, ormai è 15 anni che vengo a Pontida, l'ho sempre vissuta in mezzo a voi. Essere davanti al mio popolo è un'emozione incredibile. In questo momento non è tanto un lavoro la politica, è una passione che ho vissuto in casa, sì. E che voglio portare avanti. Credo che se quindi sto portando avanti i progetti giusti debbano un po' attaccarmi, magari nella paura che possa veramente un giorno essere in Italia un politico che può contare, può fare certe tante cose per questo paese. Credo e spero di riuscire a diventare il punto di riferimento della politica per i giovani di oggi. Tre valori in cui credi. Allora, l'onestà, sicuramente, prima di tutto. Poi, vediamo. No, perché l'onestà credo sia uno dei valori più importanti. Veloce, altri due. Spesso. Ma non saprei. Mentre gira, gira, gira. Ragazzi, passerà alla storia questa intervista della Bignardi a Renzo Bossi. Non saprei. A parte come è fatto a pensare all'onestà come primo valore, è bellissimo perché. E poi vedremo se tutte queste cose saranno confermate, però sembrano indizi molto convergenti. Non è che proprio l'onestà fosse il primo dei suoi, delle sue preoccupazioni. Non saprei, due valori doveva dire, tre valori. Insomma, qualcuno ha votato questo personaggio. Facciamoci delle domande, proviamoci a dare delle risposte. 800 24 00 24. Ben inteso, questo vale anche per molti altri e non solo per Renzo Bossi. E allora riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Stasera la bacheca di Facebook non è così attiva, a me non ci sono spunti così interessanti. Abbiamo, da chi partiamo? Da Claudio che ci chiama da Pordenone. Buonasera, prego, benvenuto. Buonasera, grazie. Niente, un po' di pietà per il povero Renzo, come sparare sulla Croce Rossa? Si commenta da solo. Io volevo fare un altro discorso, non sono leghista, non ho mai votato la Lega, però insomma, poverino, dai, si commenta da solo. Il mio commento era un altro. Adesso ci stanno, con quello che è venuto fuori, ci stanno promettendo, sì, state bravi, fate buoni, che adesso stiamo facendo una nuova legge per il finanziamento dei partiti. Ma qui non si tratta in Italia, non solo sul finanziamento, ma un po' su tutto, di fare nuove leggi. Di leggi in Italia ne abbiamo fin troppe. Facciamo il controllo, vediamo quante sono le leggi sul codice civile italiano, andiamo a confrontarle con Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti. E li battiamo 10-1. Qui si tratta di voler applicare i principi morali e le leggi che già ci sono. Anzi, si tratterebbe di cancellare una legge su tre. Quello che aveva cominciato Calderoli, mi pare, e che era stato promesso dal governo precedente, dal presidente ancora di centrosinistra. Sì, che poi non si sa bene cosa aveva bruciato Calderoli in quel rogo di leggi, qualcuno dice, e gli era partita un po' la mano e ha bruciato anche delle cose utili, ma naturalmente era un rogo simbolico per dire che stiamo semplificando, il ministro della semplificazione. Non lo so, qualcuno oggi scrive anche dei commenti, degli editoriali, per esempio già citato Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che dice: con questa vicenda di Bossi si chiude l'asse Bossi-Berlusconi per sempre, con un grande fallimento negli ultimi 15 o addirittura di più 20 anni, un bilancio molto negativo, una rivoluzione totalmente fallita anche dal punto di vista politico. Già, perché ci sarebbe anche da parlare dal punto di vista politico di quali saranno le conseguenze. Tra l'altro, se lo dice Galli della Loggia, che non è che in passato sia stato invece affascinato anche lui da certe tesi di Bossi o di Berlusconi, sicuramente si sta chiudendo un periodo e dovremmo anche fare un po' il bilancio. Una cosa che ci si potrebbe chiedere, per esempio, è perché il tema del federalismo, che è permeato in tutta la politica italiana, ormai non c'è più un partito che non sia federalista, e però le tasse a livello locale sono aumentate, il federalismo sembra ancora piuttosto lontano dall'essere realizzato, e così di fatto è, e questo forse è la più grossa sconfitta politica, questa sì, della Lega, che da anni lavora a questo tema, senza poter dire di avere raccolto granché, mi pare, a questo punto. E su questo sono d'accordo con l'editoriale di Galli della Loggia sul Corriere. Andiamo a Fabio, che ci chiama proprio da Vicenza. Buonasera. Sì, buonasera a lei. Prego. Sì, io volevo intervenire un pochino sulla questione di Renzo Bossi, preso come simbolo dei politici, incapaci. I partiti hanno da sempre selezionato il personale di rappresentanza in base al criterio della fedeltà, non della capacità. Fra l'altro, le capacità ti rendono anche poco controllabile, perché vuol dire che sai stare in piedi da solo. Se invece sei, diciamolo in maniera chiara, un totale incapace come Renzo Bossi, che non riesce neanche a fare l'esame di maturità lo passano il 98% dei degli esaminati. Se non riesce a passare l'esame di maturità per tre volte, è evidente che proprio non ci siamo, va bene, povero ragazzo, ce ne sono altri come lui, non ce l'ho con lui, ma è stato preso apposta perché è così, perché sicuramente sarà fedele, proprio perché incompetente, non potendo campare con i propri piedi, sarai certo che non tradirà mai il partito. Quindi il paradigma va ribaltato, non è un caso che sono incompetenti per obbligo. Tutto qui, cioè basta pensare in questa chiave, attenzione perché poi i competenti invece spesso sono addirittura peggio, facciamo un po' di nomi, Geronzi è sicuramente competente in materia che economica. Che adesso Geronzi, com'è che è arrivato a Geronzi, che non è un politico? Esempio, sì. Per fare un esempio di come spesso e volentieri le classi dirigenti siano selezionate non sulla base della competenza e incompetenza, possono essere competenti o non competenti, ma della fedeltà alla causa, del fatto che se cadono loro, cade anche la causa, quindi sono legati a doppio filo. Il loro mandato non è verso i cittadini o verso le leggi, è verso il gruppo di potere che li mantiene. Grazie Fabio. Tra l'altro a me ha colpito in questo il fatto che Belsito, l'ex il tesoriere della Lega, colui che insomma, sarebbe un po' il terminale di tutte queste operazioni finanziarie spericolate, di questi soldi pubblici sottratti alle finalità dovute, è andata invece in mille altri rivoli, era niente proprio di meno che nel consiglio di amministrazione, non vorrei dire una fesseria, ma è così, della Fincantieri, cioè ha avuto un ruolo in questo, la Fincantieri di cui nelle cronache leggiamo in questo periodo di crisi che non ha più commesse, che lascia lavoratori a casa eccetera, certo non sarà tutta colpa di Belsito, però viene da interrogarsi insomma se personaggi di questo tipo qua erano stati messi dai partiti, e questo ripeto non vale solo per la Lega, ma sicuramente in questo caso vale anche per la Lega, i ruoli chiave di questo tipo, poi non c'è di che stupirsi se il prodotto interno lordo per esempio italiano va a rallentatore rispetto a quello della Germania. Mi sembra un elemento così da non trascurare. Dove andiamo? A Walter che ci chiama da Reggio Emilia, buonasera. Sì, buonasera, sono Walter. Sì. Senta, io la contattavo perché trovo veramente strano ora, in merito alla Lega, che il Maroni, il Tosi di turno cadino dal pero. Cioè, perché loro per 20 anni sono stati a fianco di Bossi e anche del Cerchio Magico, e non si sono mai accorti che che c'erano questi costi, diciamo, fuori dai registri, insomma, ecco. Quindi cioè, se io elettore che devo dare il voto a un Maroni che si sveglia dopo 20 anni, non capisco quale credibilità possa avere. Stessa cosa vale per Rutelli con l'Usi, insomma, che qua tutti si svegliano, cadono dal pero, cioè veramente io sono allibito, ecco. Va bene Walter, può darsi che Maroni abbia usato un po' strumentalmente questa vicenda, perché adesso naturalmente sarà lui a guadagnarci in termini politici da questa situazione, però certo se sapeva qualcosa avrebbe dovuto sicuramente dirlo, e forse è lecito sospettare anche, come diceva lei, di Rutelli e di chi se c'era non vedeva oppure dormiva, insomma, ecco, e anche questo sarebbe quantomeno un errore di omesso intervento. Va bene, Maurizio da Ancona, buonasera. Buonasera. Prego. Potrebbe cadere perché sono in viaggio. Comunque niente, io volevo dire semplicemente che parlare a volte non serve. In politica si possono fare anche gli esempi. Vogliono abolire il finanziamento con rimborsi elettorali? Basta non prenderli. L'ha detto anche un altro spettatore, ho sentito che parlava anche del Movimento 5 Stelle, senza far nomi dei partiti. Sì, un aspirante consigliere regionale lombardo del Movimento 5 Stelle, candidato, sì, ha detto che loro hanno rinunciato ai rimborsi elettorali, almeno per quanto riguarda, credo parlasse del caso della Lombardia. Va bene, chiudiamo con un altro intervento. Dove andiamo? Gabriele che ci chiama dalla provincia di Bologna, buonasera. Buonasera, buonasera. 30 secondi per chiudere questa sera, prego. Sì, ho sentito diverse persone che sono intervenute, avvilite, perse da questa situazione, no? E hanno detto dobbiamo strappare la tessera elettorale, dobbiamo sotterrarla. Bene, io credo che il modo di reagire giusto non sia sotterrare la tessera elettorale, ma sia di seppellirla e usarla in prima persona. Nel senso che in questa situazione incomincio a pensare che la spinta democratica, il diritto democratico si svolga non più attraverso i partiti, ma attraverso una volontà di scendere in campo, usa questa espressione che è stata un po' abusata, ma riprendendosi come cittadini la voglia, l'onore e l'onere di provare a cambiare qualcosa. Gabriele, dobbiamo fermarci, grazie anche per il suo intervento, grazie a tutti, buona serata, un ringraziamento anche a Riccardo Poli, Laura Marchesi e Pietro Lacorti, da Alessio Maurizi, l'auguro di una buona serata.